Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. La mobilità sociale è qualcosa che interessa soprattutto le persone che iniziano oggi a lavorare, è un problema che è legato soprattutto ai giovani, quindi l'idea della mobilità sociale è quella, è una mobilità sociale che uno può avere durante la propria vita lavorativa. Quello che è successo con la crisi, ripeto, è il fatto che rischiamo di avere delle persone che hanno ingenti patrimoni e che il rendimento di questi patrimoni è più alto di quello che uno può ottenere magari anche lavorando sodo per tutta la vita, e questo rischia di perpetuare delle disuguaglianze nel corso del tempo. Noi vorremmo che questo non avvenisse, perché una società che si condanna a vivere sui patrimoni è una società che non ha futuro. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Il tema della mobilità sociale apre la nostra puntata. Lo spunto di partenza ce lo offre l'esperto di economia e presidente dell'INPS, Tito Boeri, che recentemente, lo avete appena ascoltato, ha toccato il drammatico problema di un'Italia ancora troppo dipendente dalle rendite di posizione. Rendite che favoriscono ricchezze acquisite, come i patrimoni, e soffocano tutto ciò che è economia nuova e viva, rallentando, se non bloccando del tutto, la mobilità sociale. Questa contrapposizione ci ricorda molto quella che gli americani definirebbero old money versus new money. E oggi ve lo annunciamo fin d'ora, quella che vi offriremo sarà una puntata molto a stelle e strisce. Prima però la frase della settimana, copyright di Papa Francesco. Non possiamo tarpare le ali a quanti, in particolare giovani, hanno tanto da dare con la loro intelligenza e capacità. Vanno liberati dai pesi che li opprimono e impediscono loro di entrare a pieno diritto e quanto prima nel mondo del lavoro, dice il Papa, che guarda alla disoccupazione dei giovani italiani come a uno scenario preoccupante, facendo notare che sempre più ragazzi lasciano il paese per l'estero. Questa situazione richiede passi concreti per favorire l'aprirsi di nuovi posti di lavoro e una mobilitazione generale. Il lavoro dà la dignità, conclude il pontefice. E proprio il lavoro è al centro dei sogni e soprattutto dei timori dei giovani. Questo l'identikit dei 17-19 anni della penisola, tracciato dal terzo rapporto dell'osservatorio Generazione Proteo. Il lavoro, libero professionista in primis, poi dipendente e imprenditore, serve per raggiungere la libertà, secondo i giovani, che vedono la disoccupazione come un pericolo che vale 10 volte più del terrorismo. Per gli autori del rapporto, quella dei giovani italiani è una corsa a ostacoli, individuati soprattutto nelle sovrastrutture sociali, economiche, politiche e culturali di questo paese. C'è anche chi questi ostacoli preferisce levarli subito di torno. Di fronte a un mondo del giornalismo italiano sempre più asfittico e impenetrabile, la tentazione americana può risultare davvero molto forte. Scrissi da più di 150 relazioni con tanto di curriculum. Io volevo fare il corrispondente dagli Stati Uniti. Ricevetti in tutto una sola risposta, tra l'altro negativa. Nicola Oricuia, 33 anni e direttore del magazine Il Bostoniano negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura vi annunciamo gli 8 vincitori dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa 2015 che si è conclusa la scorsa settimana. Viaggeranno a Strasburgo per una visita al Parlamento Europeo i nostri ascoltatori Giancarlo, Federico, Laura e Giovanna, mentre riceveranno un pass per visitare il padiglione europeo di Expo 2015 Ruggero, Riccardo, Maico e Giorgio. I dettagli sui vincitori e le loro proposte li potete trovare sul sito www.radio24.it. Gli 8 selezionati saranno contattati nei prossimi giorni. In Italia il tasso di occupazione dei giovani under 30 è sceso di quasi 12 punti tra il 2007 e il 2013, passando al 52%, il secondo peggior dato tra i paesi OCSE, dietro alla Grecia. Nella penisola i giovani inattivi sono il 26% degli under 30, quarto dato più elevato tra i paesi OCSE. Infine, nel bel paese, il 31% dei giovani svolge un lavoro di routine che non richiede l'utilizzo di competenze specifiche e il 15% ha un'occupazione che comporta uno scarso apprendimento legato al lavoro. E torniamo anche sul recente rapporto Istat di cui vi abbiamo accennato nell'ultima puntata, citando pochi significativi dati. 3.000 dottori di ricerca del 2008 e 2010 vivono abitualmente all'estero. I paesi che attraggono maggiormente sono Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia. I motivi che spingono gli italiani all'emigrazione sono le maggiori opportunità di lavoro, più qualificato e meglio retribuito. E sempre secondo l'Istat sono stati i giovani a pagare il prezzo più salato di 6 anni di crisi. Tra il 2008 e il 2014 sono spariti quasi 2 milioni di lavoratori under 35. Ironia della sorte, l'occupazione è tornata a crescere l'anno scorso per i lavoratori più anziani, mentre continua a calare per i più giovani. In tema di mobilità internazionale, parliamo oggi di un progetto dell'Università di Pavia che mira a sviluppare una circolazione dei cervelli sull'asse con Boston, Stati Uniti, anche attraverso stage per studenti pavesi oltreoceano e viceversa. L'iniziativa da quest'anno è finanziata a livello ministeriale. Francesco Svelto, prorettore dell'Università di Pavia. C'è una prima fase che è già in corso, in cui si prevede scambio di docenti e studiosi in università. In particolare, in 2 anni prevediamo di scambiare 50 studiosi, con studiosi intendo studenti del dottorato di ricerca, studenti postdoc e professori, con le università di Boston. Da notare che più della metà andranno o verranno da Harvard ed MIT. Quanto, secondo voi, è vitale oggi favorire una mobilità, chiamiamola, dei cervelli? È fondamentale, perché bisogna assolutamente riprendere un filo e un posizionamento nella ricerca globale e internazionale. Quindi favorire la permanenza di giovani, in particolare che hanno già un titolo di dottore di ricerca e che siano ricercatori inquadrati nell'Università di Pavia, lo riteniamo cruciale, perché questo permette di creare un link di ricerca, di favorire accesso ai fondi, a progettualità di alto livello internazionale con grossi nomi di riferimento, e anche scambiare giovani, e quindi favorire il parco studenti del dottorato e postdoc. Con un finanziamento pari a 12 milioni e l'obiettivo di investire su 1000 progetti di giovani, arriva la seconda edizione di Torno Subito, iniziativa messa in campo dalla Regione Lazio per finanziare esperienze di studio o lavoro in Italia e all'estero per under 35. Ingegneri, professionisti, creativi studiano in Italia, poi vanno a lavorare fuori, una perdita per il nostro paese anche dal punto di vista economico. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Info su tornosubito.laziodisu.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Boston, città che fa da sfondo a questa nostra puntata. Proiettandoci idealmente sulla costa est americana, sviluppiamo una mezz'ora di riflessione e davvero tanta autocritica sul mondo del giornalismo italiano. Nome: Nicola. Cognome: Oricuglia. Età: 33. Città di origine: Roma. Studi: Scienze della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Stati Uniti. Perché? Per amore e per lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore di giornale. Dove? A Boston. Tornerai? Per ora no. L'Italia, lo sappiamo, è un paese dove alcune categorie di lavoro sono chiuse e rigide. Il giornalismo italiano è forse uno dei più chiusi. Quando negli Stati Uniti racconto che c'è bisogno di un tesserino per poter praticare il mestiere di giornalista, i miei interlocutori non capiscono. La concezione che il giornalismo, che dovrebbe dare una voce a quelli che non ce l'hanno, sia una sorta di casta, è fuori dal mondo. Così Nicola denuncia in modo netto a giovanitalenti@radio24.it. In modo altrettanto netto ti propongo la prima possibile soluzione: abolire per cominciare l'ordine dei giornalisti. Sei d'accordo? E se sì, perché? L'ordine è un concetto anacronistico, si vuole proteggere una categoria, ma allo stesso tempo si erige un muro che blocca e complica l'inserimento di nuovi professionisti. Solo in Italia c'è questo ordine e non capisco perché solo noi ce l'abbiamo. La tua storia, Nicola, prende le mosse da una laurea in Scienze della Comunicazione, Università La Sapienza. Non avevo la più pallida idea di cosa volessi fare nella vita, ricordi con humor. Perché proprio quella facoltà allora? Beh, era una facoltà abbastanza generica, soprattutto al primo e secondo anno. Vedevo più sbocchi una volta conclusa. E che voto daresti oggi, a posteriori, alla qualità dell'insegnamento in Italia? Guarda, gli darei un 7 pieno. La qualità dell'insegnamento è davvero eccezionale, ma lo studente si ritrova ad essere solo, non è seguito e non si sente parte di una struttura più grande. Vige, insomma, la legge della giungla. E non è solo quella la giungla, perché il tuo incontro-scontro col mondo del giornalismo italiano inizia presto. Al terzo anno di università accogli l'occasione di uno stage di 6 mesi presso una piccola redazione, occupandoti di esteri. In cosa si tramutò quello stage in termini temporali e soprattutto di compensi? Io volevo ottenere il tesserino da pubblicista, per cui chiesi di rimanere altri 2 anni dopo i 6 mesi di stage. Così come per i miei colleghi nella stessa situazione, non era previsto un compenso, eppure si stava in redazione non meno di 6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. 2 anni, 0 euro per avere un tesserino da pubblicista. Ma a cosa serve questo agognato tesserino, Nicola, in Italia? Chiedo anch'io, una volta lo usai per entrare gratis in un museo e mi sono anche vergognato un po' di averlo fatto. Dopo 2 anni e mezzo lasci il giornale e passi a una free press, dove, fate attenzione, ti promettono addirittura dei soldi, 300 euro, e sottolineo 300 euro al mese. In cambio devi fare il caporedattore e dopo 6 mesi te ne vai. Perché? Non mi pagavano. Dopo 1000 scuse ho affrontato finalmente l'editore e gli ho detto che me ne andavo. Lui però non sembrava affatto turbato. Immagino ce ne fosse già un altro alla porta, pronto a prendere il tuo posto. Penso di sì. È in quel momento che arriva forse la delusione più amara da un mondo del giornalismo italiano sempre più impermeabile alle outsiders, coloro che non possono vantare gli agganci giusti, quelli che non possono iscriversi a costose scuole di giornalismo, che stanno ormai trasformando questa professione in una sorta di hobby per giovani ricchi. Nicola, quante email hai scritto alle redazioni italiane proponendoti e quante risposte hai ricevuto? Scrissi a più di 150 redazioni con tanto di curriculum e io volevo fare il corrispondente dagli Stati Uniti, da Chicago per essere precisi, e ricevetti in tutto una sola risposta, e tra l'altro negativa. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Nicola Auricuia, 33enne giornalista ed editore a Boston. Nicola vi approda dopo alcuni anni di gavetta editoriale in Italia. Nella penisola sperimenta un mondo del lavoro completamente opaco e asfittico, dove lavorare gratis è la regola, nella speranza di poter entrare un giorno nella ristretta elite dei giornalisti professionisti con contratto. Negli Stati Uniti osserva invece un pianeta capovolto, dove le offerte di impiego come reporter sono pubbliche e contendibili. Dopo un inizio presso un giornale italo-americano, Nicola si sposta a Boston, dove fonda la propria testata, prima online, poi cartacea. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. A quel punto decidi che è ora di partire insieme alla tua compagna per gli Stati Uniti. Quale occasione vi dà lo slancio per mollare tutto e prendere il volo verso Chicago? Per lei era una posizione di ricerca presso un'università di Chicago. Per me invece era l'occasione di imprimere una spinta nella direzione giusta per la mia carriera. Com'è stato l'impatto con gli Stati Uniti, soprattutto il ripartire da zero? Per me è stato estremamente positivo. Io ho percepito un'energia rinnovatrice intorno a me. Le persone, le aziende, si mettevano tutti in gioco e quindi da neoimmigrato io mi sono ritrovato benissimo in questo contesto. Nel 2008 ti iscrivi a un master in giornalismo e ti chiedo subito quali differenze hai trovato nelle metodologie di insegnamento tra Stati Uniti e Italia. Allora, il master qui è percepito come un trampolino di lancio per la tua carriera. Fin dal primo giorno vieni messo a lavorare sodo, a praticare il tuo mestiere, e l'idea è di dare delle solide basi teoriche ma soprattutto pratiche per formare un professionista. In Italia invece è molta teoria e pochissima pratica. E tra l'altro svolgi uno stage alla rete televisiva NBC, collabori con l'Huffington Post, edizione americana. Tuttavia la cosa più incredibile è che la stampa italiana appare interessata alle tue offerte di collaborazione dall'America solo in un caso, quando le proponi. Quale? Sì, alcune realtà italiane, anche molto grandi, si mostrano interessate ai miei articoli e alle mie fotografie, collaboro gratuitamente con loro. Poi ho cominciato a chiedere un compenso, come tutti i freelance, però alla mia richiesta queste realtà non si sono nemmeno degnate di rispondere. Quindi finché lavori gratis bene e appena chiedi soldi, insomma, ciao e amici come prima. Fermiamoci un attimo, vorrei dare spazio ad alcune tue riflessioni. La prima riguarda il mestiere da giornalista, in particolare dei giovani aspiranti giornalisti in Italia. Tu lo riassumi in tre pesanti parole: eravamo tutti sfruttati. Perché? Sì, dovendo per forza ottenere un tesserino, che sia da pubblicista o da professionista, questo mette il coltello dalla parte del manico alle testate giornalistiche, che trovano degli escamotage per non pagarti. Il giornalismo negli Stati Uniti è un mestiere come un altro: chi è bravo ce la fa, chi non è bravo può andare a cercare qualcos'altro, riassumi. I giornali investono nei giovani, aggiunge. Allora ti chiedo, Nicola, qual è il segreto di questo sistema anglosassone? Il segreto è molto semplice: i giornali sono delle imprese e come tali devono pensare a come sopravvivere e come crescere. Per fare entrambe queste cose, soprattutto in un'epoca di grandi cambiamenti nel mondo della comunicazione come oggi, i giornali americani investono nei giovani, che hanno un senso più pratico di dove sta andando il mondo. Come si fa a trovare lavoro da giornalista in Italia, ti chiedi ancora oggi, e io ti giro la domanda. Negli Stati Uniti ci spieghi in modo semplice e sintetico come funziona il job market, perché è tutto alla luce del sole? Qui tutto alla luce del sole perché si può trovare un lavoro senza problemi anche solo andando su un sito di un giornale dove c'è la voce jobs, employment, dove si trovano delle posizioni aperte. Io una realtà del genere non l'ho mai trovata su un sito di un giornale italiano. Oh, è rarissima effettivamente. Torniamo alla tua storia. Per farla breve, nel 2010 ricevi un'offerta da una piccola realtà editoriale per la comunità italiana di Chicago, Fra Noi, per la quale cominci a lavorare. Pochi mesi dopo la tua compagna si trasferisce per lavoro a Boston e tu la segui. A Boston scopri che la vasta comunità italo-americana non ha un media di riferimento. Così, con l'aiuto dei tuoi editori, lanci il bostoniano.info, prima un sito web e poi anche rivista cartacea in 11.000 copie. Tu ora sei giornalista, direttore ed editore. Che effetto ti ha fatto passare al ruolo di imprenditore? Devo essere sincero, non avrei mai pensato di ricoprire questo ruolo, però quando si è in certe situazioni si fa di necessità virtù. La differenza tra farlo in Italia e farlo negli Stati Uniti è che qui vieni sostenuto ed incoraggiato nei tuoi sforzi imprenditoriali. In Italia ci sono tantissimi paletti. Domanda di rito, Nicola, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. L'Italia, secondo me, è un serbatoio eccezionale di talenti e di professionisti. Purtroppo è il sistema Italia che non sa come dar voce e spazio a questi giovani che si ritrovano ad emigrare. Creiamo una vera rete tra università e mondo del lavoro. Non lasciamo che i giovani soli debbano affrontare questo salto nel buio. Ci raggiunge ora in linea Stefano Vaccara, direttore della Voce di New York. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Stefano, ci scrive Nicola, i mondi giornalistici italiano e americano per quanto riguarda il lavoro sono distanti anni luce. Anche qui esiste la cosiddetta gavetta, però chi la attraversa sa che ci sono opportunità concrete dall'altra parte. In Italia non sai mai che fine farai. Stefano, con te partirei proprio da questa affermazione. È così in base alla tua esperienza? Negli Stati Uniti il lavoro di giornalista è un lavoro come tutti gli altri. Si inizia a lavorare, se si ha successo, se si è bravi, si fa avanti, carriera, se invece non si è capaci si cambia mestiere. Più chiaro di così. La tua storia in breve: sei siciliano di origine, dopo la laurea in storia a Siena e un master a Boston, inizia a lavorare dagli Stati Uniti per il giornale di Indro Montanelli prima di approdare alla testata italoamericana America Oggi, poi l'idea di fondare una tua testata, esattamente come ha fatto Nicola, La Voce di New York. Perché l'idea di metterti in proprio lanciandoti in un'esperienza imprenditoriale? Io sono un po' più grande di Nicola e ho 50 anni, penso che sia il sogno di tutti i giornalisti di fare il proprio giornale. Dopo aver lavorato per quasi 20 anni con America Oggi, ho pensato che fosse il momento adatto, perché internet ti consente di fare un giornale e farlo leggere, tra l'altro, non solo a New York, ma praticamente tutto il mondo. La Voce di New York, ora ci spiegherai cos'è, però ti faccio una domanda specifica: perché nel logo hai inserito la dicitura protetto dal primo emendamento della Costituzione americana? Perché La Voce di New York, prima di tutto, è un giornale, sì, in italiano, però un giornale americano. Io sono anche un cittadino americano e poi il giornale, il server è americano. Non deve essere registrato, perché solo in Italia i giornali devono essere registrati. Io ho messo la dicitura perché io sono un critico del sistema italiano. Per me in Italia non c'è una vera libertà di stampa, ma non per me, lo dicono tutte le... E infatti, Stefano, tu stai conducendo anche una battaglia per la libertà di stampa, denunci come l'Italia sia sempre in fondo alla classifica tra i paesi occidentali. Allora ti chiedo, quali sono i mali profondi alla base di questa insufficiente libertà? Guarda, e ho visto che prima Nicola elencava quello dell'ordine dei giornalisti, ma quello dell'ordine dei giornalisti non è neanche più grave. Cioè, è gravissimo ovviamente l'accesso alla professione regolarizzato, diciamo che quella è una legge un po' di derivazione fascista, ma è ancora più grave, ancora più grave in Italia, per questo siamo in fondo alle classifiche, è quello che i giornalisti in Italia vengono continuamente querelati, ma vengono querelati dai potenti, cioè dai politici, qualcosa che non potrebbe mai succedere per esempio negli Stati Uniti. Spiegaci bene. Perché il primo emendamento della Costituzione americana, e poi anche l'articolo 21 della Costituzione italiana doveva riflettere quell'emendamento della Costituzione americana, solo che non viene attuato purtroppo, dice praticamente, impone che nessun potente, anzi al contrario, più sei potente e tu meno puoi mettere il bavaglio alla libera stampa. Quindi non puoi denunciare il giornalista anche quando il giornalista sbaglia, anche quando è in errore. Grazie a Stefano Vaccara, direttore della Voce di New York, in bocca al lupo. E domanda di rito per Nicola Ricuia: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Prepararsi tanto ed essere pronti a tutto ed essere anche flessibili. E torna da questa settimana anche la nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore Policy and Performance per la IPPF a Londra, richieste competenze manageriali, scadenza per CV 7 giugno, info su appointments.egonzender.com. Una consigliere legale per il Consiglio d'Europa a Strasburgo, scadenza per CV domani, info su coe.int/jobs. E infine, lo European Patent Office intende assumere quest'anno oltre 150 tra ricercatori e ingegneri. C'è ancora tempo per candidarsi alla seconda call primaverile, quella dell'AIA, scadenza per il CV 5 giugno, info su epo.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, spazio alle vostre lettere e alle vostre riflessioni. Vi sottoponiamo la missiva della nostra ascoltatrice Simona, dedicata a un tema assolutamente importante: le prospettive che un lavoro può offrire, soprattutto se si vive in Italia. Scriveteci le vostre riflessioni su giovani, lavoro ed espatrio a giovanitalenti@radio24.it. Ciao Sergio, sono una giovane 35enne. Ho un contratto a tempo indeterminato in un ente no profit. Sono una di quelle che gli italiani chiamano fortunate. Ma non è così. Nessuno parla di lavoro inteso come prospettive lavorative. È chiaro, avere uno stipendio sicuro è una certezza, ma vogliamo parlare di prospettive lavorative e non di meritocrazia. La meritocrazia non è un alibi che ci protegge dalla quotidianità, non è che tutti i giorni si hanno delle idee brillanti che cambieranno il mondo, ma è dalle esigenze di un lavoro che possono nascere delle idee. Ma quali esigenze di lavoro? Quale lavoro? Ormai sono tutti impegnati a scrivere email e a fare bilanci. Ecco perché sono alla ricerca di un lavoro all'estero che mi dia la prospettiva di crescere, imparare e confrontarmi con altri. Qui tutto sembra che cambi, ma non cambia mai niente. Ho sentito la vostra trasmissione. Beh, io sono una di quelle descritte. Una laurea in economia conseguita mentre lavoravo e facevo il programmatore. E adesso? Adesso qualunque cosa, purché mi porti fuori da questo mondo. Senza sogni, né progetti, né speranze, né idee di cosa fare. Solo l'amara consapevolezza di avere un cervello che avrebbe voglia di essere utilizzato, ma che è in stand-by. Vorrei precisare che non sono un genio, né mi ritengo tale, ma perché non si parla mai delle persone che, discretamente, vorrebbero un lavoro? Ci sono quelli che sono i geni, ed è giusto che abbiano le loro grandi occasioni, ma gli altri, che fanno gli altri? Spero di capire quale possa essere la mia strada. Simona. Un motivo per restare o tornare. C'è una tricolore che batte nel cuore degli studenti americani. Se potessero scegliere un paese in cui vivere diverso dagli Stati Uniti, uno studente universitario su quattro opterebbe per l'Italia. Giunge a questa conclusione il sondaggio realizzato dalla Fondazione Italia-USA insieme alla John Cabot University su un gruppo di studenti americani. In generale, gli statunitensi sono attratti dall'Italia per cibo, diversità culturale, qualità della vita, cortesia degli abitanti e moda. Ma il nostro paese, nota l'80% di loro, fa poco per autopromuoversi oltreoceano. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Aria di Ripresa, di battere in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio. È arrivata la ripresa sul fronte occupazione, la vedete? Se doveste scegliere oggi tra restare in Italia o espatriare, quale sarebbe l'opzione su cui puntereste? E sul fronte della selezione da parte delle aziende, vedete un cambio di passo nella valutazione e risposta ai curricula? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.